Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, lo sapevate che ci sono territori che si auto-organizzano e si fanno una politica industriale per conto proprio? E che questo avviene in assenza di una politica industriale nazionale fatta dal governo? E questo è il caso della Toscana che, in collaborazione con KPMG, sta creando una Pharma Valley, un cluster che servirà a far crescere il settore farmaceutico locale e a irrobustirlo. Il settore farmaceutico toscano è il terzo in Italia. Con questo piano industriale lo si vuole rendere ancora più importante e chissà mai farlo diventare secondo. Ne parliamo con Roberto Giovannini, il partner di KPMG che segue il manufacturing e questo progetto specifico di politica industriale. Giovannini, come anche chi vi parla, è un appassionato di politica industriale. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, lei è autore di uno dei pochi progetti di politica industriale territoriale che ci sono, che si chiama Pharma Valley. Ci spiega in un minuto e mezzo di che cosa si tratta? Allora, il progetto Pharma Valley, Tascali Pharma Valley per la verità, è un progetto di politica industriale che parte da un presupposto molto semplice. Abbiamo chiesto agli imprenditori, come diceva lei, che cosa vogliono, che cosa vorrebbero in un mondo ideale per investire maggiormente nel territorio della regione toscana. Abbiamo fatto una serie di domande, abbiamo disegnato un contesto, abbiamo definito uno scenario, abbiamo guardato quello che facevano gli altri negli Stati Uniti. Ma perché proprio in Toscana il pharma? Per due motivi. Uno casuale, derivante dal fatto di una mia frequentazione professionale abbastanza importante con l'allora assessore alla sanità Luigi Marrone, col quale un giorno in un viaggio a Roma abbiamo detto: ma perché non proviamo a fare qualcosa per convincere gli imprenditori del farm in Toscana di investire di più? È molto forte il farm in Toscana? Allora, la Toscana è la terza regione dal punto di vista del farm, ma soprattutto è la regione al primo posto per la qualità del servizio sanitario. Perché la prima regione per il farma è la Lombardia. Esatto, però per il servizio erogato è la prima. Allora, la prima però è la sua frequentazione personale, la prima regione. La seconda ragione? La seconda ragione è perché in Toscana esiste un pool di imprenditori che si sono messi in discussione e, a partire dagli Aleotti della Menarini o dei Marcucci della Kedrion, parliamo della Menarini, è la prima azienda farmaceutica italiana, la Kedrion è la prima azienda che ha avuto l'investimento del Fondo Strategico Italiano, quindi per la crescita all'estero. Vabbè, aziende eccellenti. Si sono messi in discussione per decidere che senso ha il loro lavoro e quale direzione può prendere. Sì, in maniera molto semplice hanno fatto una lista dei desiderati a fronte del quale loro sono disposti ad investire. Va bene, dobbiamo sospendere un attimo per la pubblicità gli avvisi sul traffico, restate con noi. Sauna da Ciro a Cocoruno, basta la numero di Milano e mano vanno pure a Ciro, il problema non so quello. Hanno svuotato dappertutto, rotto tutto, cioè perciò tu non riconosci più casa tua, avevi lo schifo delle tue stesse cose. Che lo vogliamo o no, le storiacce sono intorno a noi. Possono essere negli abusi del vicino di casa, nelle prepotenze dei mafiosi, negli imbrogli di chi ostacola i nostri progetti, di chi ruba i nostri risparmi e rovina le nostre giornate. Ma perché? Se siete stufi, questo è lo spazio per voi. Un po' telefono amico, un po' sportello delle denunce. Sono Raffaella Calandra, scrivetemi a storiacce@radio24.it per segnalare anche il vostro caso. Noi le storiacce le rendiamo pure mitiche. Scoprite come ogni sabato alle 21.30 su Radio 24. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presenta Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Fabbrica 2.4. Rieccoci, stavamo parlando con Roberto Giovannini, partner di KPMG per il settore industriale, di politica industriale territoriale, e lui ci stava descrivendo il progetto Pharma Valley in Toscana. Ecco, allora ci spieghi velocemente dove va a parare questo progetto, quali sono le finalità, che cosa succederà in questa Pharma Valley della Toscana? Succederà che La regione investirà 20 milioni di euro in un progetto finalizzato a fare della Toscana un ambiente eccellente per produrre farmaci e medical device. Ah, e il piano di politica industriale che tipo di azioni prevede a supporto di tale eccellenza? La costituzione di 5 aree di intervento, faccio solo un esempio di una, ricerca, un'altra brevetti, un'altra un grande polo logistico, alle porte del nuovo porto di Livorno, tra Livorno e Pisa, che dovrebbe essere una piattaforma in uscita importante per i farmaci della Toscana verso tutto il mondo. Ecco, dottor Giovannini, parliamo un attimo di politica industriale. Nei paesi più evoluti, la Germania, gli Stati Uniti, la Francia, l'Inghilterra, viene fatta una politica a supporto di specifiche aree industriali, di specifici distretti e soprattutto viene fatta investendo nella ricerca e sviluppo. Qui da noi ancora non si vede l'ombra di un piano, anche se il Ministero dello Sviluppo Economico e altri attori lo preannunciano, dicono che arriverà. C'è stato anche un lavoro fatto con la società di consulenza Roland Berger, vostra concorrente, ma ancora questo lavoro non è venuto fuori. Secondo lei, che cosa succede, che cosa potrebbe succedere? Si può fare a meno di un piano così e contare su progetti di territori che si auto-organizzano, come quello al quale voi state lavorando, oppure che altro? No, anche perché un progetto di auto-organizzazione, se poi non ha supporto dall'alto, non va a finire nulla se non in slogan. Io credo che non potremo non averle, non so ancora per quanto, in maniera più definita. Anche perché politica industriale vuol dire scelte, vuol dire scenario, e su quello scenario le imprese fanno i loro piani di investimento. E perché in Italia non si fa? Perché non si vogliono fare scelte? Secondo me perché fare scelte in Italia è sempre stato ed è ultimamente ancora un argomento complesso. Definire che su alcuni settori ha più senso investire vuol dire che su altri settori devi disinvestire. Le politiche industriali di maggiore successo sono quelle fatte in Germania e negli Stati Uniti. Anzi, il modello americano ha in qualche modo replicato quello tedesco. Ed è un modello che è fatto di investimenti in ricerca e sviluppo da parte del pubblico, con la creazione di istituzioni universitarie che producono ricerca di cui si servono le aziende. Queste istituzioni in Germania si chiamano Fraunhofer. Il modello di politica industriale tedesco è stato ripreso dall'amministrazione Obama, che ha fatto degli hub in cui viene fatta ricerca tecnologica e vicino ci sono le aziende. Questi hub sono situati in specifici distretti produttivi americani che già hanno vocazione per quel tipo di cose. Sentiamo proprio che cosa ha detto Obama quando a fine 2014 ha inaugurato un polo di ricerca che convive vicino a un polo industriale. Keeping America the cutting edge of technology and innovation is what is going to ensure a steady stream of good jobs into the 21st century. And that's why we're here today, to take new action to put America at the forefront of 21st century manufacturing. Ecco, se avete sentito bene, per coloro che non conoscessero bene l'inglese traduco, Obama, inaugurando questo centro di ricerca che sta vicino alle aziende produttive, dice: mantenere l'America all'avanguardia dell'innovazione e delle tecnologie è quello che ci assicurerà un momento storico di occupazione di alta qualità per il XXI secolo. Questo è il motivo per cui siamo qui oggi, per intraprendere nuove azioni per collocare l'America in prima linea sul manifatturiero di alta qualità. In pratica, Obama sta dicendo che cos'è la politica industriale. Va detto che la straordinaria ripresa economica americana che si è verificata in questo momento si deve alla politica industriale, alla scoperta e allo sfruttamento dello shale gas e al fatto di aver mantenuto il dollaro debole. Tutto questo insieme ha prodotto un momento di ripresa industriale e di ripresa dell'economia che è straordinario, non c'era dai tempi di Roosevelt, più 5% a fine 2014, per il 2015 è atteso un più 2-3%, ma tutta l'era di Obama potrebbe determinare un salto nell'economia americana del più 20-30%, una cosa pazzesca. Roberto Giovannini è già stato nostro ospite in una trasmissione che insieme a Stefano Dolcetta abbiamo dedicato al reshoring. Purtroppo non c'è stato tempo di dire tutto. Il reshoring è un tema che appassiona Giovannini e anche un tema di politica industriale, perché bisogna incentivare, almeno in una politica industriale ideale, le aziende a riportare qui le loro lavorazioni, a riportare qui le loro industrie. Secondo lei, una politica industriale ideale come potrebbe fare per raggiungere questo obiettivo? Beh, in Italia sarebbe particolarmente semplice, perché, come ha detto lei, il reshoring, che mi appassiona perché è soprattutto uno stimolo emotivo per l'imprenditoria. Un'azienda che rientra in Italia vuol dire fiducia, vuol dire entusiasmo, è come la primavera che ritorna fondamentalmente. In Italia è accaduta fino adesso in modo spontaneo, nonostante 80 aziende siano rientrate al secondo posto, il secondo paese in Europa. Adesso c'è bisogno che il governo aiuti questo movimento spontaneo, gli metta ordine, gli dia una ragione e trasformi un movimento spontaneo in un movimento organizzato. Ma lo farà? Oh, secondo me sarebbe sciocco se non lo facesse. Non lo può fare partendo probabilmente dai punti su cui sono partiti alcuni momenti di grande attrazione di investimenti, tipo quello dell'Irlanda con la tassazione fiscale. Forse partendo da lì non possiamo andare, ma partendo da altri contesti sicuramente deve andarci, anche perché è meno costoso attrarre nuova forza lavoro qua che svilupparla in Italia. Ecco, ma che cosa bisogna fare per incentivare gli imprenditori italiani a riportare le loro fabbriche qui? Voi di KPMG avete fatto anche un sondaggio sul tema. Sì, allora ne dico due motivi su tutti. Uno, competenze. Devi lavorare sulle competenze e sulle risorse umane, cose che in Italia abbiamo probabilmente abbandonato, abbiamo un gap di competenze rispetto ad altri paesi. La seconda cosa è devi dargli delle regole. Gli imprenditori vogliono regole e stabilità. A differenza di quanto si parla di innovazione, discontinuità, di disruption, l'imprenditore per fare delle scelte ha bisogno di regole e stabilità. Che non ci sono in Italia? Le regole ci sono, puoi vedere se sono rispettate, magari ce ne sono troppe, rispetto a tanti altri contesti ci sono troppe regole e questo rende difficile rispettarle. La stabilità vuol dire definire e lanciare dei progetti che vadano oltre un'amministrazione. Progetti degli Stati Uniti per rilanciare la manifattura sono progetti ventennali che non riguardano un'amministrazione ma che riguardano un periodo molto più lungo. Ecco, a proposito di politica industriale, torniamo un attimo al discorso della Pharma Valley. Potrebbe essere il vostro progetto, condotto con il supporto della Regione Toscana, un esempio riproducibile in tanti altri ambiti? Assolutamente sì, è anche il messaggio che abbiamo lanciato. Abbiamo lanciato quando abbiamo presentato ad esempio al viceministro Calenda il nostro progetto. L'idea era: se questo progetto noi lo mettiamo a disposizione per gli altri comparti industriali per vedere se è possibile replicarlo gratuitamente e molto velocemente. Questo è sicuramente il primo passo da fare. Ecco, lei è un esperto di industria farmaceutica, che dovrebbe essere uno dei pilastri della politica industriale italiana, anche perché il farma italiano è secondo al mondo dopo quello tedesco. C'è stato il famoso caso del farmaco per l'epatite C che costa 70.000 euro e che la guarisce, ma il servizio sanitario non sta comprendendo come fare a pagare o non pagare questo farmaco. Io so che sono in arrivo altri farmaci che sono risolutivi di malattie gravi e che hanno un costo simile. Che cosa comporta questo per le scelte di politica industriale del paese e per le scelte di politica sanitaria? E che tipo di scelte vengono fatte? Allora, la prima cosa è che non puoi fare una politica sanitaria che va da una parte e una politica industriale che va da un'altra. E infatti lì volevo arrivare. Quindi innanzitutto devi coordinare i due momenti ed è un esercizio non semplice. La seconda cosa è che devi dialogare con le imprese in modo differente. Ricordiamo che, e prima mi sono dimenticato di dirli, la gara per attrarre investimenti è una gara mondiale, tutti vogliono attrarre investimenti, quindi la competizione è worldwide. L'unico modo che puoi fare è dialogare costantemente con le imprese in modo diverso. A proposito di questi farmaci che sono risolutivi di malattie gravi, che cosa succederà? Che cosa potrà fare il governo? Pagare 70-80 mila euro per ognuna di queste pasticche che poi però magari se guariscono una patologia grave come l'epatite C alla fine abbassano il costo generale di questi malati, oppure potrà fare scelte diverse? O magari succederà che la scelta sarà quella non scelta e quindi la lista d'attesa, chi sta in lista d'attesa forse muore, chi invece ha i soldi se lo compra coi soldi suoi? si pone rivedendo, credo, si deve porre, si dovrà porre rivedendo tutte le regole del gioco, nel senso che l'altro giorno è emerso una foto sul Times dove c'era un bambino, un neonato, che diceva questo bambino vivrà, non mi ricordo se 120 o 140 anni, il che vuol dire che il cambiamento nel settore del farmaco sarà di una discontinuità enorme nei prossimi 10 anni, bisognerà rimettere in discussione tutto. La lista d'attesa è la risposta immediata del sistema sanitario a questo problema che ancora non ha trovato risposte, che la devo trovare a brevissimo. Ma non vorrei allontanarmi troppo dall'argomento centrale di questa puntata, che la Pharma Valley, che peraltro è un modello di politica industriale che è veramente interessante e innovativo. Per capire bene di che cosa si tratta, riepilogando anche molte cose che abbiamo detto nel corso della puntata, sentite qua. Un cluster della farmaceutica finalizzato a consolidare e rafforzare l'industria che c'è già e attirare nuovi investimenti ad alto valore aggiunto. È questa in sintesi la Pharma Valley Toscana, un progetto della regione che investirà 20 milioni di euro in collaborazione con la società di consulenza KPMG. Un cluster è una zona dove si incentiva una forte interrelazione fra università, istituzioni locali, grandi aziende, piccole imprese e start-up. Il cluster crea una relazione virtuosa fra i tanti soggetti coinvolti, producendo un incremento di valore sul territorio. La Pharma Valley Toscana fa leva su un settore che nella regione genera 6,3 miliardi di fatturato, il 63% dei quali è di export. In Toscana sono già presenti e attive tutte le maggiori multinazionali farmaceutiche, sia italiane che straniere. La regione offre infatti delle attrattive uniche, un solo comitato per autorizzare le sperimentazioni di farmaci, mentre altrove la media è di 12 diversi comitati, spesso fra loro contrastanti. Un incubatore per la sperimentazione clinica, una piattaforma per il finanziamento della parte organizzativa della ricerca, 3 poli universitari e 3 istituti di alta specializzazione. A breve verranno formati 3 tavoli misti fra istituzioni e aziende per decidere quali incentivi e facilitazioni mettere in campo per attirare ulteriori investimenti. La Pharma Valley, che dovrebbe iniziare ad operare attivamente dalle prime settimane del 2016, ha già un brand: Pharma and Devices Valley. Io francamente starei a parlare delle ore con Roberto Giovannini, ma questa trasmissione dura 20 minuti, il tempo è tiranno, lo avremo però nostro ospite anche in altre occasioni. Grazie. Arrivederci.